Ad alta voce, Patrizia Zappa Mulas legge Il cappello del prete di Emilio De Marchi. Il barone era andato incontro al prete con un viso allegro. Gli aveva chiesto notizie della sua salute, se il viaggio era stato buono. Poi soggiunse: «Venite, don Cirillo. Ho mandato or ora in cerca di don Nunziante, che è andato al comune per un contratto d'acquisto. Venite, vi ricevo come posso, alla cacciatora». E così parlando entrarono in casa e andarono a sedersi nella stanzuccia a terreno davanti a un tavolino zoppo su due vecchie sedie che tentennavano anch'esse sui piedi. «Troverete la casa spoglia, ma è più facile vederne il prezzo sostanziale. Voi fate un affarone, don Cirillo, e se non fosse il bisogno che mi piglia per la gola, avrei potuto guadagnare 4 volte tanto fra un anno o fra 6 mesi. Avete portato il denaro?» «Come ho promesso, 30.000 lire», rispose il prete sottovoce, guardandosi intorno con sospetto. «Io non vi ho parlato dei rustici che sono fuori del muro di cinta. Potrei cedere queste case al comune per le scuole e ho mandato don Nunziante a interrogare il consiglio che deve appunto radunarsi oggi alle 2. Ma io sarei disposto a favorirvi se vi mostrate generoso». «E non mi mostro io generoso? Compro per 30.000 lire una casa che non conosco». «Scusate, io non voglio la rovina vostra e voi non mi darete nulla se prima non vi sarete persuaso con gli occhi vostri che la casa, considerata soltanto come un mucchio di mattoni, vale di più. Anzi, io direi, mentre si aspetta don Nunziante, di fare un giro per i locali e poi vi condurrò a vedere questi rustici». Il barone pronunziò queste ultime frasi senza guardare in viso il prete, ma con gli occhi fissi, quasi confitti alla finestra. «Son venuto anche per vedere», disse tranquillamente il prete, che stringeva il suo libro sul cuore. «E non intendete di tornare più a Napoli?» «Mai più, per omnia secula», disse il prete con una convinzione che fece colpo sull'animo di Sua Eccellenza. «Io resterò vostro ospite finché la casa è vostra e voi sarete ospite mio quando la casa sarà mia, ma a Napoli non mi vedranno più». «E se venissero a cercarvi?» «Nessuno sa che io son partito, né per dove». «Ma avete troppe ragioni per tornare spesso a Napoli. Il corpo è qui, ma l'anima di prete Cirillo è al banco di Napoli». Il barone si sforzò di ridere questa volta, per quanto si sentisse le mascelle dure e legate. «Voi mi fate torto, barone, a credere ch'io sia tanto ricco. Ho portato con me i pochi risparmi di una vita povera e modesta e spero di trovare nella quiete dei campi quella pace e quel riposo che è il premio d'una vita semplice e senza ambizione». «Voi la troverete la pace», disse il barone come se fosse un complimento, ma le sue parole suonarono in lui come un vuoto sotterraneo. «Ebbene, vediamola questa casa, poiché ci siamo. Ho osservato già che è tutta da rifare», disse il prete alzandosi. «Venite e vi farò vedere anche le cantine, se desiderate. Volete deporre il mantello?» «No, preferisco». Prete Cirillo finì la sua idea con un moto nervoso di vecchio avaro che cerca di nascondere il suo tesoro e si strinse la mantellina sui fianchi. Ma non fu tanto abile che il barone non vedesse spuntare l'orlo del libro e dall'orlo un fascetto di belle cedole azzurre della rendita italiana. «Comincerò a farvi vedere la galleria. Qui una volta c'era una bella raccolta di quadri», prese a dire il barone, che camminava un mezzo passo indietro, vicino al prete, che già pieno dell'autoguadagno osservava con silenziosa meraviglia le volte dipinte, le finestre incorniciate, i buoni mosaici. «Questa era la sala da pranzo. C'è posto per 50 convitati. Chissà che bei pranzi vi hanno consumato». L'idea di un pranzo richiamò la memoria della fame e il barone risentì un gran dolore alla bocca dello stomaco. Camminava dietro il prete come fosse l'ombra sua. Un fremito di paura e di ferocia vibrava nei forti muscoli che la volontà più forte dominava, soffocava. L'occhio avido divorava già il prete dietro la nuca, lungo i cordoni del collo che il prete aveva sottile e gracile. Se egli avesse steso le due mani, se avesse stretto quel collo entro le quattro dita, Don Cirillo non avrebbe detto più Jesus. Questa è la sala di ricevimento. È buio, ma tanto ci si vede abbastanza. Il prete si lasciava sospingere dolcissimamente, come se il suo destino lo chiamasse. Ed era lui che sentiva per primo il desiderio di vedere tutto, di scendere le scale, di entrare nei corridoi più oscuri, dove o barone non avrebbe osato, sto per dire, discendere solo. Era lui che, tratto dalla ghiottoneria del guadagno, voleva calcolare con gli occhi quante volte le 30.000 lire stavano dentro le massicce pareti e intanto seguitava a rimorchiare il suo assassino, che, quasi accecato da una sanguigna vertigine, non capiva più qual forza maligna lo trascinasse in giù. «Questa è la cucina!» «Grande!» disse il prete con un impeto di contentezza e faceva il calcolo che poteva benissimo servire a una comunità di 100 allievi. O barone non pensava più e quasi non vedeva più il suo prete. Come sul momento d'accostarsi a un intimo colloquio d'amore, freme il sangue e par che gorgogli affiotti nel corpo e la vita si mesce già con un'altra vita, così, man mano che la vittima si accostava al suo letto, il barone sentiva crescere la ferina voluttà. Di qui si va alle scuderie e poi ai sotterranei. Se prete Cirillo non fosse stato tanto stordito dalla sua avara passione, avrebbe veduto che l'occhio del barone cominciava a essere sinistro e pieno di sangue e si sarebbe voltato al suono di una voce che diventava sempre più coperta e morta come quella d'un tamburo funebre. Ma egli voleva veder tutto e, pensando al vantaggio che si poteva trarre dalle scuderie, mutandole in grandi aule di scuola, passò egli per il primo davanti alle stalle e giunse in un cortiletto chiuso per tre lati da un alto muro. Qui era ammucchiato molto materiale di fabbrica, mattoni, sabbia e fin calce viva presso una cisterna o scolatoio che il barone molti anni prima aveva fatto scavare per raccogliere l'acqua piovana in servizio delle scuderie, ma poi erano mancati i mezzi e i lavori restarono lì. Prete Cirillo, che voleva veder tutto, si avvicinò alla cisterna e allungò il collo per guardare. Fu come se gli desse un segnale. O barone balzò e, senza guardare se così facendo andava dietro alle disposizioni prese, ma sospinto da una violenza di 100 uomini, brandì una grossa leva di ferro che era in terra dimenticata dagli operai e lasciò cadere un tal colpo sulla nuca del prete che il povero martire cadde come schiacciato sul mucchio senza dare un gemito e rotolò quasi da sé nella cisterna. O barone gliene assestò un altro che avrebbe spezzato un capo di bronzo, non che la piccola testa dell'infelice, che si ruppe come una vecchia noce. Il libro cadde, si aperse e molte cartelle si sparpagliarono sui mattoni. Il barone vide insieme alle cartelle molti biglietti grandi di vario colore che acciuffò, cacciò in tasca, insaccandoli a più riprese finché la tasca fu gonfia. Con la leva spinse il morto e il libro in fondo alla cisterna, profonda 3 metri. Il corpo piombò nel molticcio con un rumore molle e pastoso. Egli prese un badile che era lì e dentro sabbia, con la sabbia buttò anche della calce e poi ancora della sabbia. Lavorava con l'alacrità di 10 uomini. Poi sollevò con la forza erculea delle sue braccia una grossa pietra già preparata che doveva ricomporre l'imboccatura. Ve la collocò come si muove e si impasta un foglio di carta sopra un vetro rotto. Prese ancora il badile, spinse sulla pietra della sabbia, dei mattoni e poi sabbia ancora, ne fece un mucchio e finalmente si guardò intorno. Era solo. La sua fronte stillava un freddo sudore. Cinto da 3 parti da un muro alto, non aveva davanti a sé che l'imboccatura di una cieca scuderia. Ascoltò e sentì un gran silenzio. Soltanto una lucertola s'era fermata sul muro e alzava la testolina come affascinata. Del resto nessuno. E un gran silenzio. Un gran silenzio. Impaurito da quel troppo nulla, attraversò a furia la scuderia e, passando per il rustico delle stalle, stava per uscire in giardino quando sentì ancora il bisogno di ritornare sopra i suoi passi per vedere ancora il sito. La calce, la sabbia, la pietra, tutti i mattoni, tutto era a suo posto. Prete Cirillo non sarebbe tornato più a Napoli. Gli parve che la leva gettata di traverso sul materiale dicesse più che non dovesse dire, ed ebbe ancora la forza di chinarsi e di conficcarla dentro il mucchio della calce, fin quasi alla mano. Poi, sentendosi mancare le forze, uscì in giardino, scese di corsa per il viale degli ulivi, risalì sempre correndo e venne in un prato pieno d'erbe folte e di sole, dove stavano pascolando le capre di Salvatore. Qui si fermò, coi piedi sprofondati nella terra molle, e cominciò a guardare stupidamente il muso delle capre che guardavano lui stupidamente, ruminando. Dopo il delitto, sensazioni. Una gran pace calda riposava sulle cose. Sui fiori svolazzavano farfalle e libellule dalle ali trasparenti. Un bel sole lieto di aprile scaldava la terra e accendeva il verde contrastante dei lauri, dei sicomori e degli ulivi. La natura era quieta, a posto, come se Prete Cirillo non fosse mai morto. Il peso della terra non era diminuito per questo. Il barone pensò che tutto ciò poteva essere un sogno. Ma non era un sogno il grosso che sentiva sotto la mano. Questi erano denari. La salvezza, l'onore, la libertà, la vita, il tutto in luogo del nulla. Rimase 2 minuti coi piedi sprofondati nella terra molle, come se un gran peso lo tirasse in giù. Poi sentì il bisogno di rompere l'incantesimo e di non lasciarsi prendere dai brividi. «Sono sensazioni!» disse a voce chiara, rispondendo a una domanda interiore. Voleva dire a se stesso che le sensazioni passano e i fatti restano. Tutto era riuscito benissimo. Nessuno aveva veduto il prete partire da Napoli. Nessuno lo aveva veduto arrivare alla villa. Nessuno sapeva perché egli fosse partito e dove riposasse. La villa ora si richiudeva per altri 30 anni e se non parlano le lucertole, chi doveva andare senza permesso del padrone a smuovere un mucchio di sassi e di sabbia per cercare un uomo che nessuno desiderava? Non rimaneva che Salvatore, ma il povero vecchio scemo era così poco curioso. Un grande ed allegro scampanio risvegliò di balzo il barone dalle sue contemplazioni. Era Martino che suonava festa per la prossima domenica in Albis. La festosa musica riempiva il cielo e le colline di una gioia, sto per dire fanciullesca, come se le campane giocassero a rincorrersi nell'aria. Sua Eccellenza il barone di Santa Fusca, richiamato al pensiero dei casi suoi, non resistendo all'enorme fatica di aspettare Salvatore fino alla sera, chiuse le stanze della villa, chiuse il cancello verso i platani e, passando per il cancello delle scuderie, alzò gli occhi rapidamente allo scrimolo del muro che cingeva il cortiletto. Li alzò per istinto, non perché egli si aspettasse di vedere la faccia giallognola del prete guardare di sopra le tegole. Chiuse anche questo cancello, così Prete Cirillo non fuggiva più. Per non dare sospetto alla gente, prese la via dei campi e, tagliando il colle per un sentieruolo di traverso che egli conosceva molto bene, andò a porsi sul passo di Salvatore, che aveva presa comodamente la lunga. Sedette sopra un muricciolo e accese una vana, come un buon villeggiante che riposa lo spirito dopo un gran lavoro. Dal luogo ove si fermò, L'occhio stendevasi su tutta la città e sul magnifico golfo, lembo di paradiso in terra, chiuso fra due conche azzurre, quella del cielo e quella del mare. In fondo il Vesuvio mandava fuori un ciuffo di fumo e l'anfiteatro della città e dei paesi distesi al suo piede biancheggiava alla luce tersa dell'aria piena di caldi effluvi. A sinistra, dietro una folta macchia di lauri, usciva la cornice grigia della villa, rattristita dall'ombra di una nuvoletta passeggera. «Sono sensazioni», disse ancora la voce di prima, come se lui parlasse lo spirito di un freddo anatomista. Lo sguardo corrucciato si sprofondava verso l'orizzonte. Accese ancora il suo buon avana e provò a soffiare il fumo verso il cielo con la beata noncuranza di chi esce dalla sala da pranzo in un giardino a digerire. La natura era bella, soave, lucida, tranquilla, come se nulla fosse accaduto. Martino suonava festa, allegramente, pazzamente, e al suono della sua musica danzavano gli echi lontani. «E le sensazioni passano, ma i fatti restano», tornava a ripetere la voce rinchiusa, mentre il braccio scendeva un poco a stringere l'altro morto che faceva gonfia la tasca dell'abito. Quanti denari aveva con sé quel prete! Egli non aveva avuto il tempo di fare il conto, ma così, a occhio e croce, aveva veduto un mucchio, un tesoro che ora si sentiva addosso e che non osava di guardare per paura che si rompesse il sogno e svegliandosi egli avesse a trovarsi al giorno del pagamento e col carabiniere alla porta. Salvatore, che camminava strascicando i piedi sulla riva sassosa, spuntò dallo svolto della stradicciuola e giunse quasi sopra il suo padrone prima di accorgersi di lui. Sarebbe anche passato oltre così se il barone non lo avesse toccato nel gomito. Il vecchio si svegliò dalla sua pensosa sonnolenza e aprì la bocca con un «Oh!» senza meraviglia. «Devo partire subito e t'ho portato le chiavi del cancello. Ho chiuso dappertutto. Se venisse qualcuno per visitare la villa con la scusa che c'è chi la vuol comprare, di apertamente che la villa non si vende, anzi, di addirittura che è già venduta e che hai l'ordine di non aprire a nessuno. Hai capito?» Il barone parlava tanto chiaro e Salvatore stava tanto attento che era difficile non capire. Il servo mise una mano sul petto e disse: «Non entrerà nessuno, eccellenza, padron mio». In quel suo contegno umile e sommesso si poteva vedere l'antico vassallo pronto a dare la vita per il feudatario. Il barone sentì che da questa parte poteva dormire tranquillamente e soggiunse: «Restituiscimi la lettera, manderò io stesso la risposta per mezzo della posta e torna pure a casa, Salvatore, che sei vecchio e hai bisogno di riposare». «Oh, eccellenza, ti manderò qualche denaro perché tu possa campare una vita meno da cane». «Oh, illustrissimo!» Il barone, nel pronunciare queste poche parole di pietà, sentì un sentimento tenero e caldo avvolgere tutto il suo cuore. Salvatore e Maddalena l'avevano portato in braccio e possedevano nel loro cuore la parte migliore del padroncino, che non era morta in loro, ma che il padroncino aveva finito di uccidere in sé. Stette a osservare il povero vecchio che ritornava docilmente sopra i suoi passi verso la villa a far compagnia all'altro, e un velo di nebbia oscurò per un istante la sua pupilla. La nebbia si sciolse, o barone si sentì gli occhi pregni di pianto. Martino riprese l'allegro scampanare. «Sono sensazioni», disse ancora una volta la voce del segreto anatomista, che il barone riconobbe uguale a quella del dottor Panther, il famoso nichilista. Vedendo che il sole volgeva al suo tramonto, si alzò, scosse la testa come il leone fa con la giubba quando si toglie dal covile, e guardò l'orologio. Erano le 4. Il prete era arrivato al tocco. Quante cose erano già accadute in queste poche ore! Il barone sentiva di aver vissuto 10 anni almeno della sua vita. Alle 4:35 ripassava il treno per Napoli. Prese un altro viottolo di traverso ed evitando di passare per Santa Fusca si portò sulla strada provinciale. Volse per prima un poco verso il mare, Girò dietro un cascinale per risalire ancora sulla provinciale, sempre di buon passo, come un uomo molto occupato che va per la sua strada, finché il fischio della locomotiva non avvertì che il treno stava per entrare in stazione. Aspettò ancora un poco per consumare tutto il tempo di più e, presa la rincorsa, arrivò in stazione nel momento giusto di prendere il treno per la coda. Mostrò il suo biglietto di ritorno al conduttore e si cacciò nell'ultimo scompartimento che trovò ancora aperto. Nel vagone non c'erano che due giovani sposi, svizzeri o tedeschi, che probabilmente scendevano a passare la luna di miele in braccio alla sirena del mare. Si tenevano vicini, abbracciati, in mezzo a una montagna di valigette, di canestrini, di scialli, di ombrelli, con la spalla appoggiata alla spalla, le mani in mano, gli occhi perduti nell'infinito splendore del mare, abbagliati da quella luce che si rinforzava nel crepuscolo, mormorando paroline in cui si sentiva tutta la dolcezza del germanico liebe. Essa era bionda, con le guance suffuse di rosa, gli occhi azzurri, pieni di innocenza e di verginità. L'anima di quella romantica creatura non aveva una macchia e Dio vi si specchiava come in un cristallo. O barone, buttando un mozzicone dallo sportello, volse le spalle alla coppia felice e sputò sulla terra. Si attaccò con le due mani alla finestrella del vagone, vi appoggiò la faccia, sorreggendosi come un uomo stracco, mentre gli occhi vuoti e gonfi guardavano di fuori, senza vedere altro che un gran bagliore di colori fuggenti. Finché il treno in ritardo sforzò la sua corsa, il rombo, le scosse, il fischio, la fuga delle cose, l'affanno stesso della corsa fatta per arrivare a tempo, il battimento dei polsi, il palpito precipitoso del cuore già affetto di ipertrofia, non gli lasciarono il tempo di riflettere. Anzi, per un quarto d'ora si obbliò perfettamente, quasi assorbito dalle sue stesse emozioni fisiche. Man mano che il treno rallentava, egli cominciò a recuperarsi e trovò tutto se stesso entrando in stazione. E si meravigliò di sentirsi così sicuro e quieto. Scese e si incamminò verso la città, col passo d'un uomo convinto. Man mano che rivedeva le case, le botteghe, la gente, i soliti amici, andava recuperando anche il senso della sua vita solita. Patrizia Zappa Mulas ha letto Il cappello del prete di Emilio De Marchi, regia di Luigi Iavarone, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.